anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Ma no, no, tutta Italia per noi, va benissimo, caro amico ascoltatore, mandate le vostre sigle al 349-238-6666, eh? Allora, che dite, cari ascoltatori, siamo pronti per la lettura dei giornali? Questa è la rassegna stampa di 24 mattino, ci siamo? Forza! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? In questo giovedì 13 ottobre, intanto le aperture, alcune dedicate alla situazione finanziaria in vista della legge di stabilità. Pensioni, APE al via da maggio, sconto del 50% sugli interessi, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Così la stampa, manovra, mancano ancora 7 miliardi, questo il titolo di prima pagina. Per il Messaggero invece, pensioni anticipate meno care. E poi il referendum, il richiamo di Mattarella in prima pagina del Corriere della Sera, rispetto prima e dopo il voto, mentre Repubblica, referendum, nuovo scontro D'Alema-Renzi. Se pensate invece che nel centrodestra vada tutto a rose e fiori, il giornale, alla kermesse del giornale, scintille Parisi Toti sul futuro del centrodestra, quindi come vedete... Il Fatto Quotidiano invece, il PD confessa, realizziamo la riforma di Berlusconi. Sul sito del Sì, i punti comuni tra il DDL Boschi e il programma forzista. Queste alcune delle aperture dei quotidiani, ne vedremo altre nel corso della rassegna stampa. Voglio partire però parlando di scuola e, per la precisione, Repubblica si concentra, pagina 2 e 3, sull'edilizia scolastica. È un po' il titolo di prima pagina, anche questo affianco a quello del referendum, cioè scuola, emergenza, sicurezza, miliardi rimasti nel cassetto. Questo è bene, visto che... Cioè non è bene i miliardi di cassette, è bene leggerlo, è bene informarvi, visto che molti di voi a quest'ora, come di consueto, state portando i vostri figli a scuola. Per carità, nessun terrorismo, ma leggere l'inchiesta "La scuola che frana" a pagina 2 di Repubblica un po' inquieta. 117 crolli in 3 anni, senza tregua. Questo è quello che ha detto Cittadinanza Attiva, ce ne siamo occupati anche invitando la responsabile di Cittadinanza Attiva qualche giorno fa, proprio qui in onda. Solo nel primo mese dell'anno scolastico, scrive Repubblica, le cronache raccontano di 5 crolli, l'ultimo a Nichelino, Torino. 2 giorni fa è venuto giù il soffitto della scuola Rodari, subito dopo la pausa pranzo. Una bambina di 8 anni è stata ferita alla testa, altri 2 compagni sfiorati dai calcinacci. Lo scorso giugno lo stato di sicurezza dei soffitti era stato controllato, tutto a posto. 3 giorni fa a Padova, elementare De Amicis, una maestra ha sentito scricchiolii in classe, ha fatto evacuare, ha salvato i suoi ragazzi, una parte del soffitto in cartongesso è crollato. 30 settembre, Rho, superiore Alessandro Manzoni, ancora il soffitto. Il giorno prima, scuola media Mameli, Milano, crollata l'intera copertura della palestra, nella notte per fortuna. A Roma, quartiere Casal Monastero, vigili del fuoco hanno evacuato una scuola inaugurata solo 2 anni fa, ottobre 2014. Era ad alto livello energetico e con dischi antisismici, diceva il capitolato firmato dall'azienda edile. Invece è stata evacuata. E beh, questi... Solo i fatti di cronaca. Corrado Zunino, a pagina 3 di Repubblica, si concentra poi sui finanziamenti. Il piano da 7 miliardi frenato da ritardi e burocrazie, è stato speso solo 1 euro su 10. Sono trascorsi 31 mesi e 16 giorni, 2 anni e mezzo abbondanti, da quel viaggio di Renzi alla periferia di Treviso, nella scuola media statale Coletti, quando diceva: se c'è qualcosa che non va, segnalatelo alla casella matteo@governo.it. Archiviate le foto coi pacchi di segnalazioni di sindaci di tutta Italia, archiviate le dichiarazioni "metto subito 4 miliardi per la sicurezza e rendere belle le scuole italiane". Dice Repubblica: solo l'11,9% di quei soldi sono stati investiti. Un controllo sulle 18 voci del piano scuole sicure, verificato con le stesse strutture tecniche del Ministero dell'Istruzione, rivela che ad oggi di quei 7 miliardi e 4 messi a bilancio sul territorio sono arrivati solo 879 milioni, ecco qui l'11,9% di ciò che era stato annunciato. La macchina dello Stato è stata ancora una volta lenta? Il tentativo di portare ad unum le 18 voci di finanziamento è fallito? Innanzitutto il governo in questa partita non è solo, ha sottostimato la risposta spesso lenta di comuni e regioni. E poi altre cause analizzate da Repubblica. L'inchiesta è interessante, pagina 2-3, certo un decimo solo dei fondi spesi rispetto a quelli annunciati. A proposito di scuole invece vi segnalo, e salto sul Fatto Quotidiano, che la Camera sta per votare una legge e vede tutti abbastanza unanimemente d'accordo, a parte Sell e a parte, scrive il Fatto, qualche incertezza del Movimento 5 Stelle, per inserire le telecamere di videosorveglianza negli asili, nelle scuole materne, là dove alcuni fatti di cronaca dimostrano che alcune maestre a volte hanno perso il controllo nei confronti dei bambini, che non potendo parlare, non potendo esprimersi, non si possono neanche lamentare più di tanto a casa. Ecco, gli asili videosorvegliati, la Camera pronta a votare sì. Paola Zanca, pagina 8, alla fine, quella parola così ingombrante, videosorveglianza nel titolo della legge, non ci sarà. Segno evidente che qualche remora per essersi arresa il Grande Fratello ancora c'è. La prossima settimana però sarà l'aula di Montecitorio a discuterne e l'esito è quasi scontato, contraria solo Sinistra Italiana, 5 Stelle ancora incerti, il resto dell'emiciclo è pronto a provare misure straordinarie per prevenire e contrastare i reati nelle strutture educative e socioassistenziali pubbliche e private. Dunque non si parla di videosorveglianza, ma le telecamere, chiamatela come volete, per controllare. A proposito di telecamere, o meglio di webcam, questo mi permette di saltare al Corriere della Sera, dove Andrea Priante, a pagina 17, racconta di un'iniziativa sui generis, è un'iniziativa nuova del Tribunale di Vicenza, dove il presidente Alberto Rizzo ha deciso, per agevolare alcuni giudici mamme che lavorano da casa, di fare delle udienze in webcam. Eccolo qua, le sentenze si discutono da casa, non tanto le udienze, ma le sentenze. C'è la cameretta del bambino, i pannolini, le pappe, tutto il resto, e accanto un'altra stanza col computer, la webcam accesa, dove lavora da lì oggi mamma. Solo che la mamma non è una storia normale di telelavoro, perché qui la mamma è un giudice che, dialogando a distanza con altri giudici togati del collegio, sta decidendo la sentenza più equa in un processo civile. È questa la novità introdotta dal Tribunale di Vicenza con l'obiettivo di salvaguardare il rapporto tra le mamme magistrato e i loro bambini. Il tutto si spera migliorando la produttività del Tribunale. Al centro del progetto c'è una sala allestita al secondo piano di Palazzo di Giustizia. All'interno si svolgono le camere di consiglio e quindi, quando ci prevede la presenza di una giudice mamma, ecco che si collega con la webcam da casa, si discute e così si va avanti nel lavoro, si concilia la famiglia col lavoro. Questa iniziativa è raccontata dal Corriere della Sera. Mentre eccoci saltare sull'articolo che mi fa pinzare della giornata. È l'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida, mi raccomando, niente pugni sul volante. E poi vi distraete alla guida. Vice sindaco perde al gioco i soldi del comune. Questi comuni già depauperati. Succede, racconta il Messaggero a pagina 17 con Ilario Filippone, succede a Palizzi, paesino vicino Reggio Calabria, dove il vice sindaco di questo paesino di 2000 anime, tale Davide Bruno Plutino, 32 anni, ufficialmente indagato per il reato di peculato, forte dell'incarico di responsabilità dell'area economico-finanziaria del comune, avrebbe sottratto 300.000 euro alle casse dell'ente, impiegando buona parte del denaro per le puntate via web. I magistrati Luigi D'Alessio e Vincenzo Toscano, spulciando gli atti partoriti dall'ufficio ragioneria, avrebbero trovato le prove, soprattutto del gioco su piattaforme come William Hill, il più popolare bookmaker del Regno Unito, il sindaco dice del suo vice sindaco: «Sono amareggiato, valuteremo il da farsi, convocherò una riunione di maggioranza per decidere se revocargli la delega». Fondamentalmente sono un garantista, chissà. Magari poi avesse vinto, avrebbe dato una bella bottino al comune, non lo so. Poi bisogna sempre usare il condizionale, perché bisogna certo essere garantisti, ma comunque eccolo qua, pochi soldi nelle casse del comune e quei pochi finiscono lì. Vice sindaco perde al gioco i soldi del comune. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, la pietra trombale dell'informazione. Ieri forse mi è venuto fuori questo piccolo refuso, la pietra tombale. Signori, signori, capita! Su, fatevi una risata, l'umorismo ci salverà, come dice Marianne Satrapi. È la chiave della sopravvivenza. Allora, passiamo al referendum e l'umorismo qui scema. No, referendum ancora, c'è un dibattito sui giornali, devo dire che secondo me gli stessi giornali ora stanno capendo che forse quando è troppo, per carità, mancano ancora un mese e mezzo, c'è la campagna elettorale ancora nel pieno, sta di fatto che ancora le prime sei pagine del Corriere della Sera, per esempio, dedicate a questo, ieri si è riunito il variegato fronte del no, come racconta il Fatto Quotidiano con Fabrizio D'Esposito a pagina 3, effettivamente il colpo d'occhio impressionante, perché c'erano, non so, da centrodestra Romani, Bernini, Matteoli, Gasparri e Malan, c'era Democristianume Vario, Cirino Pomicino, Cesa, Gargani, Mauro, Roccella, Giuseppe De Mita, fino anche Lamberto Dini, leghisti, Fedriga e Giorgetti, la minoranza Dem, e poi Fini, Gianfranco Fini, Rodotà, Pippo Civati, Bobo Craxi, l'ex radicale Vigevano, Cesare Salvi, Guido Calvi, che è il presidente del comitato d'Alemiano per il no. Qualcuno li chiamerebbe, insomma, professionals della politica, e però la politica politicante non c'entra per nulla, come spiega l'ex ministro Quagliariello, uno degli organizzatori dell'iniziativa. Quando si discute di Costituzione si decidono le regole della convivenza civile, e la convivenza civile è convivenza tra diversi. Insomma, il variegato mondo del no, l'ennesimo attacco di D'Alema che non le manda a dire a Renzi, dice il fronte del sì è pericoloso, ha un carattere combattivo e lo sappiamo, dice Cuperlo di D'Alema. Comunque D'Alema che parla di clima di intimidazione, tutto per il referendum. Per carità, se uno guarda al centrodestra, come raccontano i giornali, non solo nel centro-sinistra la minoranza Dem litiga con Renzi sulla questione del referendum, ma anche il centrodestra è diviso nella iniziativa organizzata dal giornale da Alessandro Sallusti per mettere a fianco da una parte Stefano Parisi, dall'altro Giovanni Toti, dati come i due anche possibili nuovi leader del centrodestra, i leader emergenti. Parisi ha accusato molto il centrodestra stesso in quella che il Corriere della Sera chiama una rottamazione un po' brusca. Ha detto: «Oggi abbiamo parlamentari che non sono all'altezza e un gruppo dirigente non all'altezza». Questo nel centrodestra. Quindi, come vedete, se le suonano e se le cantano non solo nel Partito Democratico ma anche a destra. Guardate, forse l'elemento più interessante, l'articolo più interessante, lo spunto più interessante, nuovo, se non altro, sulla questione del referendum, della campagna referendaria, al di là delle solite diatribe, è questo. Renzi ieri, parlando del no definitivo alle Olimpiadi 2024 a candidatura a Roma, ha usato questa frase: il comune di Roma, e quindi il sindaco Raggi, si è arrogato il diritto di negare questo sogno, il sogno delle Olimpiadi, ai tanti bambini che tra 8 anni potevano competere a casa loro. I bambini. E perché cito questa cosa? Perché, ripeto, l'articolo più interessante oggi lo trovate su Il Giorno. Antonella Coppari racconta questo. Ma perché ha parlato di decisione di tarpare le ali al sogno dei bambini? E ancora 2 giorni fa Matteo Renzi ha parlato di bambini parlando dell'Italia del futuro. L'altro giorno, parlando di scuola, ha parlato di bambini. Perché parla così tanto di bambini? C'è una risposta e si trova analizzando i sondaggi arrivati sul tavolo del guru Jim Messina, quello ingaggiato a 400.000 euro secondo la stampa per fargli vincere questa competizione referendaria. Il premier va fortissimo con gli ultra sessantenni, mentre è debole con i giovani. Se può sperare che gli under 35 disertino le urne giocando la carta del vecchio che avanza, Bersani, D'Alema e company, deve però convincere gli over, deve convincere gli adulti con bambini ad andare a votare il 4 dicembre per vincere la sfida. Questa è la strategia dei maghi americani. I numeri non sono ancora soddisfacenti, l'area degli indecisi si muove percentualmente più a favore del sì che del no, e dunque bisogna convincere i genitori. Caccia al voto di mamme e papà, ecco i consigli del guru USA a Renzi. Ecco, questo secondo me è l'unico articolo interessante e nuovo sulla questione della campagna referendaria. Renzi che è invitato a parlare di bambini per coinvolgere i genitori al voto. Va bene, intanto sabato è prevista la presentazione da parte del governo della legge finanziaria, forse è la cosa più impattante sui conti di tutti noi. Come raccontano Marco Mobili e Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, a pagina 5, il Parlamento ha chiesto al governo di alzare il deficit messo in programma per il prossimo anno anche prima di ottenere il via libera dall'Europa, visto che gli spazi aggiuntivi autorizzati da Camera e Senato valgono lo 0,4% di PIL, che dunque permetterebbe di portare il deficit programmatico al 2,4%. In realtà, come scrive il Sole, è il solito tiro alla fune sui decimali, che potrebbe fermarsi intorno al 2,2%. Questo è ciò che, secondo le previsioni, anche la partita europea potrebbe concedere: 2,2-2,3%. Ovviamente la palla aspetta il governo, che sabato dovrà in qualche modo svelare le carte, poi darle anche a Bruxelles, oltre che svelarle al paese, sulla finanziaria. Su questo la Stampa dedica pagina 2-3. Con due dati. Intanto questo, Alessandro Barbera, pagina 2, alla manovra mancano 7 miliardi. Il numero è in fondo alla tabella presentata da Piercarlo Padoan alla Camera e sotto la voce ulteriori coperture, 7 miliardi e 250 milioni, sui quali il governo deve prendere una decisione entro sabato, quando il Consiglio dei Ministri approverà la bozza di manovra. Quel numero rappresenta l'ultimo round della trattativa tra governo e Commissione europea, o meglio tra Renzi e Juncker, coloro che hanno l'ultima parola e metteranno il sigillo su accordo o rottura. Si arriverà appunto al 2,2% di deficit, sforamento, 2,4, 2,3, vedremo. Di certo, come racconta Paolo Russo, sempre sulla Stampa, pagina 3, a rischio c'è la sanità soprattutto. Eccolo qui il titolo: sanità a rischio, i vaccini e le esenzioni da ticket. Si va verso tagli da 1,5 miliardi, sono in bilico le assunzioni dei medici. Oggi c'è un vertice decisivo su questo tra i ministri Lorenzin, Padoan e Boschi. E per la sanità, racconta la Stampa, si profila un taglio da 1,5 miliardi. Il Ministero dell'Economia intende limitare l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale a soli 500 milioni, portando lo stanziamento a 111,5 miliardi, non i 113 messi in conto, dunque 1,5 miliardi in meno. Quanto basta per far salire sulle barricate le regioni, che già hanno convocato per domani una conferenza straordinaria, e che se le cifre della manovra restassero queste direbbero stop all'assunzione dei medici e infermieri per svecchiare le corsie, ma soprattutto non applicherebbero i nuovi livelli essenziali di assistenza già approvati dal governo e ora in Parlamento, il che significherebbe dire addio a molte cose utili per gli assistiti d'Italia, come l'esenzione dai ticket per chi soffre di broncopolmonite cronica o malattie renali gravi, il congelamento anche del piano vaccini. Stop che significherebbe dire addio alla gratuità delle immunizzazioni contro il papillomavirus, anche per i maschietti tra i 12 e i 18 anni, l'antimeningococco B per i bambini ai primi mesi di vita, e ancora l'antiherpes zoster, il vaccino contro la varicella. Tutti questi potrebbero essere a pagamento, per non parlare delle nuove 110 malattie rare che resterebbero escluse dal paradiso della rimborsabilità, salterebbero gli accertamenti gratuiti per i celiaci, salterebbero i nuovi scooter a quattro ruote per i disabili. tutta una serie di ausili informatici per consentire di comunicare a chi ha gravi disabilità. Insomma, sul piatto c'è questo, cioè, come vedete, altro che referendum, passatemelo, però, altro che referendum, cose che impattano sulla vita di milioni di italiani. A rischio, per carità, poi magari si scongiura, si trovano i soldi, ma di fronte, racconta la stampa, questo possibile taglio di 1,5 miliardi della sanità, ecco tutte le prestazioni, e non ho finito perché ce ne sarebbero altre, raccontate dalla stampa, che rischiano di saltare e diventano a pagamento per milioni di italiani. Caro Mauro Meazza, mala tempora currunt. No? Buongiorno, Alessandro, malattia tempora verrebbe da chiosare. Malattia tempora. Ecco, vorrei parlarti di una serie di parole nuove che dovresti cominciare a segnarti in previsione proprio della manovra della legge di bilancio. Allora, ad esempio, lo Student Act. Student Act. Sai cos'è lo Student Act? È una parte della legge di bilancio dove ci saranno sostegni, sono previsti sostegni, riduzione delle tasse universitarie, ad esempio, per gli studenti meritevoli, il tutto collegato anche con l'ISEE, che già invece è una parola che conosci, giusto? La parola APE ti è già familiare. Ecco, partirà da maggio, come hai ricordato proprio in apertura, è l'argomento della nostra pagina 3, ci sarà anche una sorta di sconto sugli interessi e poi naturalmente Rita ti aiuterà. Certo. Cos'è Rita? Sì. Te lo ricordi? No, non te lo ricordi, va bene. È la rendita integrativa che puoi chiedere, se ce l'hai, al tuo fondo pensione. Sembra una commedia di Ionesco. No, ma è tutto spiegato, scusa. Ed è tutto adesso. Vero, no, non capisco perché questa ilarità da parte tua. No, comunque. Un'altra parola nuova che potresti cominciare a imparare così, questo non in previsione di sabato, ma un po' più in là, è Eppo, e questa è una sigla. Geppo, io leggevo Geppo. No, Eppo è una sigla e riguarda una procura dell'Unione Europea che dovrebbe occuparsi delle frodi IVA. E ne parla Beda Romano appunto puntualmente con questa intervista alla commissaria Vera Jourova, che immagina una procura dell'Unione Europea che si occupi di frodi IVA, quelle grosse, quelle diciamo sopra i 100.000 euro. Hai segnato tutto? Tutto. Oh, benissimo. Hai presente i voucher, quelli che hanno avuto una diffusione molto ampia? Ne riferiamo infatti in norme tributi, laddove in queste pagine che tu leggi come sempre leggi norme tributi. Norme tributi religiosamente. Bravo, bravo. Se non sai, ricordi, oggi c'è come si legge il Sole 24 Ore, le parole dell'economia, lì non c'è scritto che norme tributi va letto religiosamente, ma mi permetto io di aggiungerlo, tutto il resto lo trovi invece in questo allegato. Bene, c'è un problemino, è stata varata una modifica che dice che dobbiamo mandare un SMS, le imprese, i professionisti, dobbiamo mandare un SMS prima dell'utilizzo, però non si sa a chi mandarlo, non è stato detto, quindi c'è un pochino di così imbarazzo, perché uno manderebbe anche l'SMS ma non sa bene a chi. Suggerisco di non mandarlo a 24 mattino, perché esatto, non siamo ancora così in collegamento. Poi un'altra parolina nuova, stipending, che roba è? Irripidimento. I tassi, parliamo della bussola del risparmiatore, caro Alessandro. I tassi si stanno leggermente rialzando sugli strumenti più di medio-lungo termine, e allora come si fa a investire, tu che hai questi 2 eurini sempre immobilizzati più altre cose che avrai nei soffitti, nelle pareti, non lo so. Ecco, questo steepening ti porterà appunto a una diversa considerazione dei tuoi investimenti. Molte altre cose ti voglio dire, ma ti segnalo l'articolo da meditazione, è quello che trovi in commenti e inchieste su rifiuti e ecomafie di Roberto Gallullo. Non ti dico altro, i legami tra i rifiuti e la criminalità organizzata. E poi ti segnalo con una certa amarezza la legge sulla concorrenza, è presente? Sì. Ne discute da un pochino, ecco, poi ne parliamo nel 2017, se hai l'agenda segnatelo. Sempre. Per il momento, caro Alessandro, traffico! Contro il logorio della politica moderna, prendetevi un Alessandro Milla. Va bene, con più brio magari, che così vi tira su di morale. Allora, cari ascoltatori, tra l'altro a proposito di economia, spunta questa proposta, come racconta il Corriere della Sera in prima pagina, di in qualche modo far emergere il tanto ammontare di contanti che circolerebbe ancora tra gli italiani. Anzi, si parla di 150 miliardi tra cassette di sicurezza o nelle abitazioni, non quella di Fabrizio Corona, diciamo tutte insieme in Italia. Il tesoro nascosto in contanti degli italiani, un tesoro da 150 miliardi. Spunta dunque l'idea di una sorta di voluntary disclosure, non tanto per i capitali all'estero, ma proprio per i contanti che la gente ha. Giuseppe Guastella, pagina 11 del Corriere: in Italia gira troppo contante, troppo non si muove, arenato nelle cassette di sicurezza. Sono stime, ovviamente, quelle che parlano di 150 miliardi, 10% dell'intero PIL. D'altronde gli italiani preferiscono ancora le banconote fruscianti alla carta di credito, al bancomat. Pensate che in Italia sulla media delle operazioni, ogni 100 operazioni 87 avvengono in contanti, la media dei paesi europei è quella di 60. Allora l'idea, si pensa a un'azione mirata del governo che dietro la garanzia della non punibilità penale, riservata però solo a chi ha evaso le tasse, imponga a chi aderisce alla voluntary di rivelare la provenienza del nero e pagare contemporaneamente un una tantum. Si sta studiando questo, scrive il Corriere della Sera. Andiamo all'estero. La notizia più clamorosa è quella diffusa in tarda serata del suicidio, lo dico con un punto di domanda perché se lo chiedono anche in Germania. È stato trovato impiccato in cella il terrorista catturato due giorni fa, Jaber al-Bakr, quello che secondo le autorità stava per pianificare un attentato in Germania e che è stato arrestato grazie alla collaborazione di due persone che invece di dargli rifugio lo hanno denunciato. Però anche qui Jaber al-Bakr in realtà ai primi interrogatori aveva detto che altro che mi hanno arrestato, erano miei complici. E poi ieri si è suicidato, per l'appunto, questo almeno in cella. E però era una cella in cui era sotto strettissima osservazione. Insomma, i misteri ci sono tutti. Jaber al-Bakr, siriano, 22enne, sospettato di aver pianificato un attentato islamico in Germania, si è suicidato in carcere, così Tonia Mastrobuoni, a pagina 17 di Repubblica. Ma sarà oggi la polizia della Sassonia che dovrà, in una conferenza stampa, spiegare e avrà l'arduo onere di spiegare come sia potuto avvenire un fatto così incredibile. Comunque la notizia è questa: si è impiccato in cella, questo raccontano i giornali. Tra l'altro noi di attualità internazionale parleremo le tensioni tra Russia e mondo occidentale. Vi segnalo però in rapida conclusione che basta. Basta questi articoli, i comitati contro i compiti a casa, basta, basta. Il Giorno dedica due pagine, compiti a casa, genitori in rivolta, gli appelli, le petizioni, sono troppi. Addirittura ha dedicato la prima pagina, il titolo di prima pagina, si moltiplicano le associazioni di genitori che si ribellano ai compiti a casa. Basta, oggigiorno, guarda qua, lo faccio vedere in diretta sul mio profilo Facebook. Due pagine. Basta compiti a casa. E i cinesi, ricordo sempre la mia amica carissima cinese che manda i figli a scuola italiana dal lunedì al venerdì e il sabato tutto il giorno alla scuola cinese, ci faranno un così. Giustamente, visto che loro studiano e questi problemi non se li pongono. Va bene, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi ce n'erano tanto, i clown che spaventano il mondo, c'è questa clown hysteria, cos'è, in tutto il mondo. Beh, questa non è male, sul Corriere della Sera una pagina. Oppure ecco come Fido e Micio possono diventare nonni, una pagina del giornale. Un gatto negli Stati Uniti ha compiuto 31 anni, è diventato nonno. Ma la carta costa va invece una pagina, La Verità, a Gemma Gaetani. Un grande abbraccio a lei e soprattutto a Kim Kardashian. Una pagina ancora su Kim Kardashian e le altre donne di serie B che gli indignati chic non difendono mai. Ecco, sono un indignato. Guardate, faccio la faccia da indignato chic. Ma chi se ne frega!